gridando con la forza di chi ha ragione. Camminavi sotto l'ombra di una bandiera e gridavi rifugio in un portone, in un attimo, senza il tempo di pensare, ho vissuto ciò che più tu non vivrai. Sembrava un'altra storia. We'll be right back. carrierista, l'ultimo ipocrita, l'ultimo borghese, saranno scomparsi da questa terra. Allora sarà giunto il vostro momento per parlarci d'amore. Ma forse tu, ma forse tu, fratello, non ci sarai più. The only thing's so bright. Plan of passage. che corri sotto di me. Traccia di me posso restare. Tanti giorni che ti seguo e non so più se fino in fondo arriverò. E mi chiedo We'll be right back. reaching and understanding. All your dreams were very close to me. Now you live a life, nothing more to say. Thank you. sente fame, viene giù dalle montagne, per la vita ucciderà. Ed un passero ha nel becco quel che resta di un insetto, anche in lui non c'è pietà. È l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. Sono in lotta per la femmina che aspetta e al più forte si darà. Molti uomini hanno lottato, molte donne hanno aspettato, ma un bambino non lo sa. È l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. Thank you. senza più là. E mi faccio muratore col cemento e col mattone, tiro sulle civiltà. E l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. Io mi fermerò qua giù. Sono morto partigiano perché Dio sia contadino e padrone non sia più. È l'amore per la vita che dà ad un uomo senza forza la forza che ha. E la forza che ho io si moltiplica dentro di me.